GR24, il sole 24 ore. Disoccupazione, nuovo record a ottobre, 2.900.000 i senza lavoro. Susanna Camusso, 2013 anche peggiore, rinviare i nuovi ammortizzatori sociali. Draghi, è finito il tempo delle favole, gli stati per uscire dalla crisi devono cedere sovranità in Europa. Ilva ha recuperato il corpo dell'operaio disperso mercoledì, governo intanto pronto al decreto, a Genova attenzione per il corteo degli operai di Cornigliano. Trasporti, sciopero dei piloti Alitalia, fermi anche i ferrovieri fino alle 21, Trenitalia però assicura i treni dei pendolari. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con GR24 in apertura con i dati economici che continuano a indicare una negativa congiuntura, questa volta riguardano la disoccupazione. In Italia i senza lavoro ad ottobre, secondo l'Istat, sono saliti a quasi 3 milioni, l'11,1% della popolazione, ma il primato stavolta non riguarda solo l'Italia, è anche europeo, anche se ovviamente questo non consola. Sale il numero delle persone senza un lavoro in Italia. Il tasso di disoccupazione a ottobre ha superato la soglia dell'11%, raggiungendo l'11,1, un rialzo di 0,3 punti percentuali su settembre e di 2,3 su base annua. Lo rileva l'Istat e sottolinea che è il tasso più alto da gennaio 1992. Situazione ancora peggiore per i giovani. Il tasso di disoccupazione in questo caso è al 36,5%. I lavoratori italiani poi sono sempre più precari. Nel terzo trimestre i dipendenti a termine sono stati 2.447.000, a cui si aggiungono 430.000 collaboratori. Sommando quindi le due categorie si sfiorano i 3 milioni di lavoratori precari, il massimo dal 1993. Non sono lavoratori che vogliono essere impiegati temporaneamente, sottolinea l'Istat, ma che accettano lavori a tempo in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. Nell'eurozona le cose non vanno meglio. A ottobre sono stati registrati 18 milioni di disoccupati, pari all'11,7%, dato in crescita rispetto al mese precedente. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 Ore. Nell'eurozona il tasso di disoccupazione è salito a ottobre all'11,7% della popolazione attiva. Gli analisti si attendevano un dato stabile, invece i disoccupati sono aumentati di ben 173.000 unità in un solo mese. Anche nell'Europa 27 non va meglio, il tasso dei senza lavoro è passato dal 16 al 17. Nel complesso quindi i senza lavoro nella Unione Europea sono 25,9 milioni, di cui 18,7 solo nell'Eurozona. Ma a preoccupare è soprattutto la disoccupazione giovanile, con tassi del 23,9 nella media dell'Eurozona e con picchi incredibilmente alti in Grecia al 57%, seguita dalla Spagna al 55%. Cifre da emergenza sociale se paragonate ai paesi del nord Europa. Non a caso l'emigrazione greca verso la Germania, soprattutto di giovani laureati, è aumentata in un solo anno del 70%, un nuovo colpo per Atene che perde così i giovani cervelli migliori. Vittorio Darol, Radio 24, il Sole 24 Ore. E sui dati della disoccupazione il commento della segretario della CGIL Susanna Camusso: il 2013 dice sarà ancora più pesante del 2012, che è già stato l'anno più pesante della crisi. La riorganizzazione degli ammortizzatori sociali sarebbe certamente da rinviare nel momento in cui ci sarà la crescita, ha concluso Susanna Camusso. Nuova frenata intanto per l'inflazione: a novembre, secondo l'Istat, è scesa al 2,5%, tornando così ai livelli di marzo dell'anno scorso. Tra poco sentiremo come si sta muovendo il governo su una questione che ha a che fare con l'occupazione, cioè l'Ilva, perché è riunito il governo e c'è la possibilità che ne esca un decreto per il dissequestro degli impianti di Taranto. Per ora non ci sono notizie, ci collegheremo tra poco con Palazzo Chigi. Di lavoro ha parlato oggi anche il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha detto in Italia e in Francia sono necessarie ancora riforme per rendere meno rigido il mercato del lavoro. Draghi poi ha parlato anche della situazione economica, sentiamo. L'eurozona non è ancora fuori dalla crisi, ma potrebbe iniziare a riprendersi nella seconda metà del 2013. Lo dice il presidente della BCE, Mario Draghi, secondo il quale il consolidamento di bilancio a medio termine è inevitabile. Per Draghi, alcuni paesi dell'eurozona hanno vissuto in un mondo di favola, sottostimando gli squilibri come il deficit e il debito, che in alcuni paesi sono stati ritenuti sostenibili per anni per poi rivelarsi insostenibili. In questo contesto la Banca Centrale farà tutto il necessario per preservare l'euro e Draghi ha ribadito che la BCE è pronta ad intervenire con lo scudo anti-spread se necessario. I paesi dell'eurozona però devono imparare a condividere la sovranità a partire dall'unione bancaria. Unione bancaria che è una priorità anche per il direttore del Fondo Monetario. Per Lagarde la situazione economica nella zona euro resta fragile nonostante le risposte politiche forti a livello nazionale ed europeo che hanno contribuito a tranquillizzare i mercati. Serve dunque una chiara prova di solidarietà europea. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo sui mercati e ritroviamo Deborah Rosciani. Buongiorno, com'è la situazione Deborah? Metà allora giornata. La situazione, buona giornata anche a voi. La situazione è positiva prevalentemente questa mattina sui mercati europei. La mattinata nella prima parte è stata più incerta, indici contrastati e poi dopo i rialzi di ieri il mercato ha preferito consolidarli ed allungarli anche un po'. Milano ha trascorso tutta la prima parte della sua seduta in negativo, adesso invece guadagna lo 0,10% sul FTSE MIB. Londra più 0,25%, Parigi più 0,34% e Francoforte addirittura si avvia a guadagnare quasi mezzo punto percentuale. Piuttosto brillante anche la seduta dell'euro sul dollaro sopra quota 1,30. Buone notizie che continuano ad arrivare anche sul fronte spread, differenziale fra Italia e Germania sulla scadenza decennale. Siamo in questo momento sui 314 punti base col tasso sul titolo decennale sul mercato secondario al 4,52%, sempre sui minimi da due anni a questa parte. È in discesa sotto i 400 punti anche lo spread della Spagna con il rendimento dei bonus al 5,33%. Oggi, esattamente come ieri, aspettiamo numerosi dati dagli Stati Uniti, in particolar modo conosceremo le statistiche sui redditi e spese personali e per quello che riguarda Piazza Affari solo un'occhiata molto veloce ai migliori titoli: Popolare dell'Emilia Romagna più 2,69%, Fiat più 1,61%, Exor più 1,54%. È tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Adesso occupiamoci della vicenda Ilva. Iniziamo dalla cronaca. A Taranto è stato recuperato il corpo dell'operaio disperso mercoledì in seguito alla tromba d'aria che, ricorderete, ha colpito lo stabilimento. E allora ritroviamo la nostra inviata Raffaella Calandra. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lo hanno ritrovato in fondo al mare nello stesso giorno in cui da Roma arrivano quelle notizie così tanto attese come una boccata d'ossigeno da lui come dagli altri suoi colleghi. È rimasto intrappolato nella cabina della sua gru, Francesco Zaccaria, 29 anni, operaio dell'Ilva, sbalzato da 30 metri d'altezza dal tornado di mercoledì. Non era riuscito a scendere, né quel guscio di acciaio dove lavorava ogni giorno lo aveva protetto dalla tromba d'aria, come è successo invece per gli altri gruisti feriti ma salvi. Sul molo 4, all'altezza del quinto sporgente, i colleghi ora si interrogano sull'efficacia delle misure di sicurezza e il dolore per la morte del giovane che solo da pochi giorni era andato a vivere insieme alla fidanzata, vela di ancor più amarezza la fiducia nell'atteso decreto, proprio come vela gli occhi degli altri operai che dicono abbiamo scioperato per venire a morire. Era stata una conquista mercoledì avere di nuovo quei badge attivati dopo l'allarme rosso chiusura del giorno prima. Il dolore per la morte dell'operaio si unisce a quei dubbi sullo stesso provvedimento legislativo, a cominciare dal rischio di incostituzionalità, e non riporta dunque la serenità su Taranto, anche se allontana le bufere. E per ora da Taranto è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. E dicevamo, Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi, allo studio anche un decreto che potrebbe portare al dissequestro degli stabilimenti. Facciamo il punto con Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno, una giornata che potrebbe essere decisiva per il futuro del colosso siderurgico. Gli occhi sono puntati su questo Consiglio dei Ministri cominciato poco dopo le 11, un'ora e mezza di ritardo rispetto all'orario previsto. Sul tavolo il decreto che dovrebbe consentire da un lato la bonifica degli impianti di Taranto, dall'altro garantire il ritorno al lavoro almeno parziale dei lavoratori rientro bloccato, come sappiamo a seguito dell'intervento della magistratura. Occorre conciliare, secondo il Premier Monti, la tutela dell'occupazione dell'ambiente con rispetto della magistratura per evitare un impatto negativo sull'economia di 8 miliardi di euro l'anno. Per questo punti principali del provvedimento saranno l'autorizzazione integrata ambientale con forza di legge, la ripresa dell'attività produttiva e commerciale dell'ILVA, la sospensione dei provvedimenti di sequestri incompatibili con l'AIA, un garante per vigilare sull'attuazione del decreto legge e la responsabilità e gestione dello stabilimento in capo all'ILVA. In particolare il provvedimento confermerà che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 26 ottobre esplica in ogni caso effetto e ciò significa che per due stagioni consentirà all'ILVA di restare in piedi e di avviare in contemporanea quella bonifica ambientale necessaria. Sono punti che il governo sta mettendo a punto in queste ore, ma che tengono anche conto delle osservazioni emerse ieri nell'incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali, l'azienda e gli enti locali. E sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche il provvedimento liste pulite e incandidabilità dei condannati, un testo che dovrebbe essere varato sotto forma di schema sul quale le commissioni parlamentari competenti dovranno esprimersi entro 60 giorni. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Adesso ci spostiamo a Genova, dove prosegue la manifestazione degli operai di Cornigliano. Ci eravamo lasciati con un presidio con intenzioni anche un po' minacciose, forse davanti alla prefettura della città. Ritroviamo Andrea Ferro. Buongiorno Andrea, com'è la situazione al momento? Sì, buongiorno, vi parlo davanti alla prefettura di Genova, dove il gigantesco mezzo meccanico abitualmente usato per trasportare i rotoli d'acciaio resta parcheggiato con il suo bulbo metallico puntato contro il portone sbarrato. Poco dopo mezzogiorno il veicolo è stato messo in moto con l'intenzione di sfondare. Sono stati attimi di assoluta tensione. A quel punto il sindaco di Genova, Marco Doria, che da un'ora era in piazza accanto agli operai dell'ILVA, si è posto tra il portone e il mezzo meccanico, praticamente ha fatto da scudo, un gesto che ha evitato che la tensione degenerasse. Mentre vi parlo, gli operai continuano a presidiare il palazzo del governo e le strade attorno nell'attesa delle notizie da Roma sui contenuti del decreto del governo di cui si parlava nel precedente servizio dalla capitale. L'incertezza alimenta il timore che a Cornigliano non vengano garantiti i livelli produttivi e quindi quelli occupazionali. E pochi istanti fa il portone della prefettura è stato temporaneamente aperto, una delegazione degli operai è stata fatta entrare insieme al sindaco Marco Doria e ora è in corso l'incontro con il prefetto Balsamo. E per il momento dalla prefettura di Genova è tutto, Alessio, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro da Genova, questa dunque è la cronaca della manifestazione degli operai di Cornigliano e sentiremo più avanti come si concluderà questa manifestazione. Adesso cambiamo decisamente pagina perché dopo il voto alle Nazioni Unite sulla Palestina come Stato osservatore, oggi è tornato a parlare di questo anche il ministro degli esteri Terzi. Ce ne parla Valeria De Rosa che più avanti in Italia in Controluce farà un approfondimento su questo. Sì Alessio, intanto buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori. Allora diciamo intanto che sul voto italiano non c'era stata unanimità fino all'ultimo momento, poi il Presidente del Consiglio, sostenuto anche dal Presidente della Repubblica, ha deciso per il sì alle Nazioni Unite e diciamo che si sa che c'è stata discussione all'interno del governo perché il Ministro Terzi fino all'ultimo era stato per una posizione di astensione per quel che riguarda l'Italia. Però stamattina il Ministro è intervenuto ovviamente sul voto, affermando che il sì dell'Italia alla Palestina come Stato osservatore all'ONU è stata una decisione ponderata, la linea del governo italiano è stata espressa dalla Presidenza del Consiglio ed è stata ben chiarita in un comunicato del Presidente. Terzi ha anche detto che i palestinesi ora si devono impegnare per sedersi di nuovo al tavolo dei negoziati con Israele senza precondizioni. Questa vittoria palestinese, inoltre, ha detto sempre Terzi, non deve essere sfruttata per avviare procedimenti presso la Corte Penale Internazionale contro Israele. E poi ancora il ministro ha voluto sottolineare come l'Italia è fortemente convinta del suo rapporto di amicizia con Israele e con i palestinesi ed è una priorità anche il rapporto con gli Stati Uniti. Quindi una decisione molto meditata e come al solito politica in questo caso. E va bene Valeria, grazie. Più tardi alle 13.30 Italia in Controluce ancora un approfondimento su questo. Intanto tiriamo qualche riflessione politica proprio su questa vicenda con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Con il voto all'ONU l'Italia di Monti ha lasciato da parte la linea filo-israeliana che aveva segnato gli anni di Berlusconi ed è tornata alle tradizionali posizioni più filo-palestinesi della nostra politica estera. In concreto si è espressa come la Francia e si è allontanata dalla linea di Obama o anche da quella della Germania che si è astenuta. Ha fatto bene, ha fatto male il nostro governo? Lo vedremo nei prossimi tempi. Se questo voto avvicina la pace o almeno il dialogo in Medio Oriente, avrà fatto bene. Se invece avrà reso tutto più difficile, come molti temono, avrà fatto male. Soltanto una cosa è sicura. Ancora una volta l'Europa ha dimostrato di non avere una politica estera comune. Niente di nuovo sotto il sole. E adesso ripartiamo dalla politica perché sono le ultime ore del duello tra il segretario del PD Pierluigi Bersani e lo sfidante Matteo Renzi. Sentiamo quali sono i colpi che si stanno scambiando in questi minuti. Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Tocca stamattina al segretario PD parlare a Repubblica.it per la corsa alle primarie di centro-sinistra. Pierluigi Bersani ribadisce che le regole non si cambiano in corsa, ma attacca Matteo Renzi soprattutto sulla politica estera. È la differenza più consistente, spiega, e ne voglio parlare con Matteo. Il segretario PD ribadisce poi che l'accordo con i centristi non è affatto uno sbocco inevitabile, né quello con Nichi Vendola, ma Bersani è al centro dello scandalo dei finanziamenti da parte della famiglia Riva, proprietaria dell'Ilva di Taranto. Il segretario PD avrebbe ricevuto 98.000 euro per una campagna elettorale. Bersani precisa: contributi dati ai sensi di legge, nulla di illegale, e annuncia querele. Lo sfidante Matteo Renzi invece contrattacca dopo l'esposto degli altri quattro candidati sulla pubblicità nei giornali per far votare al secondo turno. Con questa caccia alle streghe stanno facendo il male a se stessi, dice appunto il sindaco di Firenze, è un boomerang e spero non gli si ritorca contro. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Il graffio di Dario Ceccarelli. Padre, lo confesso, domenica scorsa, al posto che votare alle primarie, sono andato in vacanza. Perdono. Peccato, lo ammetto. Ora, per favore, mi fa votare. Così il graffio di Dario Ceccarelli sulle primarie in casa del centro-sinistra. Cosa succede invece in casa del centrodestra e del PDL in particolare? Forse per ora nessuno lo sa. Che sia la confusione a regnare in queste ore nel Popolo delle Libertà lo testimoniano anche le parole di Franco Frattini. Nessuno riesce a capire chi siamo e dove andiamo, spiega l'ex ministro degli esteri, che chiede a Berlusconi di fare chiarezza sul futuro del partito. Le ultime indiscrezioni parlano di riunioni dai toni molto accesi nei piani alti di Via dell'Umiltà. L'unica cosa che appare ormai certa è la cancellazione delle primarie, voluta dal Cavaliere nonostante le resistenze di Alfano, sarà ratificata martedì dall'ufficio di presidenza. Quello delle primarie non è però l'unico nodo che aspetta di essere sciolto. A tenere appesi i vertici del partito sono infatti anche le decisioni di Berlusconi su una sua eventuale ricandidatura, legata, sembra, al risultato delle primarie del PD, e soprattutto quelle sul nuovo assetto del partito, al quale l'ex premier sta lavorando lontano da Roma, ad Arcore. Le ipotesi sul tavolo sono molte, da una nuova Forza Italia ad un PDL rinnovato o spacchettato in varie liste. Da definire c'è poi anche il destino degli ex AN, divisi sull'ipotesi di proseguire con il PDL o finire in un nuovo soggetto politico, come invece vorrebbe il Cavaliere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora cambiamo pagina, lasciamoci la politica alle spalle. Un flop, la domanda per la moratoria fiscale sul sisma in Emilia-Romagna, che doveva aiutare le imprese dopo il terremoto a dilazionare il pagamento delle tasse. Troppa burocrazia ha infatti tagliato le gambe al provvedimento, che voleva essere d'aiuto alle industrie colpite e danneggiate, ma gli imprenditori preferiscono pagare in mora piuttosto che presentare le complesse domande di finanziamento in banca e rateizzare arretrati di tasse e contributi. Oggi è l'ultimo giorno per presentare le pratiche. Fino ad ora poco più di un migliaio in tutto, le istanze che sono giunte se ne aspettavano più di 10.000. Neppure l'aiuto di CNA e l'APAM per gli associati ha aumentato il numero di chi poteva accedere a questa agevolazione a lungo richiesta anche dalla politica locale al governo. Anna Marino ha chiesto a Carmen Calari, responsabile fiscale della CNA di Bologna, un commento su questa vicenda. L'andamento per il momento le posso dire che è stato piuttosto basso, perché poi i chiarimenti sono usciti troppo avanti, troppo tardi. E quindi più o meno il numero delle domande qual è stato? Come domande le dico, credo che alla fine saranno meno di 10, glielo dico proprio sinceramente. Ecco, secondo lei è stato difficile appunto poi mettersi a sfogliare tutte le regole, la burocrazia? Certo, sono state troppe e in troppi momenti diversi, tutti i giorni è uscito un provvedimento nuovo, quindi insomma io credo che non si possa continuare a lavorare in questo modo. Poi è stato un intervento urgente, insomma. Ecco, oggi è l'ultimo giorno, sono state presentate le domande? Sì, tutte. Le ripeto, erano poche. Per quanto riguarda appunto la gestione, per voi com'è stata? Onerosa, difficile? Questa è stata la difficoltà minore. Il problema era interpretare tutto il resto prima. Col fatto che siamo una struttura piuttosto complessa, abbiamo cercato di collaborare tutti insieme e la questione è stata risolta per questo. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Si riparte con la Serie A, partite frazionate questa sera, l'anticipo, il primo Milan-Catania. Ritroviamo Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, anticipo del venerdì 20:45 per aprire la 15ª giornata di campionato. In campo il Milan per tutta la settimana, caricato dalle continue visite di Silvio Berlusconi a Milanello. Milan che gioca a Catania, Milan che conferma la squadra che ha battuto la Juventus, quindi davanti ad Amelia con Abbiate ancora indisponibile, De Sciglio, Mexes, Acerbi e Constant, Montolivo promosso a leader del futuro proprio da Silvio Berlusconi a centrocampo insieme a De Jong e Nocerino, Robinho, l'intoccabile ormai El Shaarawy davanti, accompagnato da Boateng che viene preferito ancora a Bojan. Il Milan tenta l'impossibile rimonta e vedremo che cosa succederà in questo weekend che proporrà domani sera il derby di Torino. Ed è tutto, linea di nuovo allo studio. Grazie a Carlo Genta, è tutto anche per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Matteo Comes in regia, vi augurano buona giornata. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Da oggi e fino a domenica a Bari, seconda edizione di Medimex, la fiera delle musiche del Mediterraneo, promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale. È l'unica fiera internazionale in Italia dedicata alla musica, ai nuovi scenari del mercato musicale, agli scambi artistici e commerciali e alle nuove tendenze. Il direttore di Puglia Sounds, Antonio Principalli. Si parla dell'intera filiera musicale, che per filiera si intende come per qualsiasi settore produttivo, di tutte le componenti che compongono il grande sistema musicale, dai produttori alle case discografiche, ai festival, agli studi di registrazione, ai tecnici. Quindi proviamo a dare un'occasione, un'opportunità a tutto questo mondo nazionale ed internazionale per riflettere, come dire, sullo sviluppo del sistema musica nel suo complesso per i prossimi anni. Quanto amore dai! Eros Ramazzotti con noi conquista il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana. L'album uscito 2 settimane fa ha raggiunto la testa della top 10 di iTunes in 17 paesi in tutto il mondo. Entra subito in seconda posizione Zucchero con La Session Cubana. Il singolo più scaricato resta invece ancora Skyfall di Adele. Anche quest'anno si celebra il Lennon Day, l'evento organizzato dai Beatlesiani d'Italia associati con la direzione artistica di Rolando e Alice Giambelli, si terrà domani dalle 16 alle 23 negli spazi della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia. A 32 anni dalla tragica scomparsa di Lennon, avvenuta nel dicembre del 1980 a New York per mano di un fanatico, è prevista per l'occasione una lunga serie di live act con una ventina di band coinvolte, oltre ad ospiti come Alberto Fortis, Tony Sheridan, il rocker inglese che nel 61 registrò con i Beatles la canzone My Bonnie, e Gary Gibson, il sosia di John Lennon. Dopo la semifinale di ieri sera in cui è stato eliminato Daniele, colpo di scena per la seconda grande edizione di X Factor su Sky. Saranno due, infatti, le serate che porteranno alla scoperta della nuova pop star, giovedì 6 dicembre e venerdì 7 dicembre. La super finalissima in due serate live prevede per giovedì 6 dicembre una prima eliminazione. Il meno votato dei quattro poi uscirà di scena, mentre i tre destinati al podio si esibiranno in un'ultima performance che lascerà spazio a una lunga maratona di voti. Aldo, Giovanni e Giacomo vanno su YouTube con un loro canale che si inaugura oggi con la diretta streaming dei primi minuti del loro nuovo spettacolo Ammutta Muddica, che proprio oggi debutta al Teatro Fraschini di Pavia. 20 anni di carriera con centinaia di ore di filmati, di repertorio e anche materiale nuovo con spettacoli teatrali, pillole, backstage e spezzoni inediti. Da domani e per due sabati successivi, l'8 e il 15 alle 21, sarà possibile vedere in esclusiva sul canale 150 della piattaforma Sky tre episodi di Nel Regno Segreto delle Piante, tre spettacolari documentari realizzati grazie alle rivoluzionarie tecniche del 3D. L'intera serie verrà riproposta sabato 22 dicembre in una maratona a partire dalle 14. Il commento del critico cinematografico Gianni Canova. Un elemento esperienziale per cui mi viene da dire vale la pena di vederlo è che ti sembra di entrare dentro i fiori, di sentire la vita vegetale. Questo film di David Attenborough, applicando le tecnologie di ultima generazione del 3D, riesce davvero a scrivere una specie di grande poema della natura. È veramente un pezzo di grande cinema. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.